sono stati diversi gruppi di lavoro sui diritti sociali, sulle differenze di genere, sulla democrazia, sulla pace ovviamente, anzi era il primo e probabilmente è stato uno di quelli più partecipati. Mi pare che in questi due giorni sia stato messo molto in evidenza anche come scadenza, e non soltanto il fatto che ovviamente il 4 giugno potrebbe disegnare, potrebbe alludere a quella cittadinanza europea che è contro la guerra e che già si è manifestata il 15 di febbraio e il 20 marzo di quest'anno, ma che il tema della pace, la questione della pace venga messa come un punto di riferimento importante nelle azioni future dei movimenti europei. Ecco, allora su questa dimensione mi pare che una parola comune il sabato e domenica forse sia stata cercata, che sia stata trovata interamente non lo so, però insomma da qualche anno a questa parte, dal Forum di Firenze, passando per quello di Parigi Saint-Denis e si spera il Forum di Londra, un percorso che metta al centro la questione della pace come una questione di civiltà del XXI secolo, mi sembra che ci sia come esigenza. Nel gruppo, per esempio, che riguardava il ragionamento su democrazia, partecipazione e comunicazione, anche se non siamo riusciti ad elaborare una vera e propria carta da presentare diciamo in vista del Forum di Londra, però almeno due o tre punti sono emersi fuori in maniera chiara. Il primo di questi era l'esigenza di democrazia dal basso, da contrapporre appunto alla democrazia rappresentativa, così come si è stabilizzata anche nelle istituzioni europee. Il secondo punto era quello dell'esigenza di una presa di parola comune a proposito della questione che riguarda il federalismo, e il terzo punto era quello di legare però la questione della democrazia con la questione della comunicazione intesa sia nel senso di una comunicazione interna alle varie parti del movimento, ma quindi la ricerca di una lingua comune, ma soprattutto anche per quanto riguarda il rapporto che c'è tra informazione, media, mezzi di comunicazione, che in Europa e poi in Italia in particolare vive una stagione non troppo felice. In realtà lo snodo fondamentale fosse quello di cercare di trovare delle forme nuove, come in questi anni i movimenti hanno tentato di fare, di democrazia, quindi declinare il concetto di democrazia non soltanto dal punto di vista della novecentesca rappresentanza che è sostanzialmente in crisi all'interno degli stati-nazione, ma di proiettare invece questo ragionamento su quella che Habermas ha chiamato la costellazione post-nazionale, quindi immaginare e alludere ad uno spazio europeo come uno spazio in cui il federalismo dal basso, in cui l'autogoverno, in cui l'autonomia delle singole comunità e quindi anche un'autonomia e un autogoverno solidali possano essere un'alternativa reale in termini democratici.